GR24, il sole 24 ore. Dell'Utri indagato per estorsione, convocata dai PM Marina Berlusconi. Napolitano si incontra con Monti, si discute di decreti e caso Sicilia. Siria, attacco kamikaze a Damasco, ucciso il ministro della difesa. Vivisezione, sequestrata la Green Hill di Montichiari. Buon pomeriggio dalla redazione, da Valentina Furlanetto. Il senatore del PDL Marcello Dell'Utri è indagato dalla Procura di Palermo per estorsione nei confronti dell'ex premier Silvio Berlusconi. Non solo l'ex premier, ma anche la figlia, convocati come teste nella nuova inchiesta per estorsione a carico di Marcello Dell'Utri. Entrambi erano stati convocati per lunedì, entrambi hanno posto precedenti impegni. Un filone questo già esplorato in passato con le dichiarazioni di più pentiti e ora riaperto, seguendo soprattutto le tracce del passaggio di soldi dalla famiglia Berlusconi all'ex manager di Publitaria. Prestiti infruttiferi, denaro partito da conti anche di Marina e soprattutto l'acquisto da parte dell'ex premier a marzo della villa di Dell'Utri sul lago di Como alla vigilia della sentenza della Cassazione per il senatore. 21 milioni il prezzo pagato, 9,3 il valore stimato da una vecchia perizia. La differenza è il costo del silenzio su certi rapporti con i boss? Questo il sospetto dei PM, convinti anche che Dell'Utri, dopo l'omicidio di Salvo Lima nel 92, abbia preso il suo posto quale mediatore con Cosa Nostra nella trattativa con lo Stato e per questo il senatore PDL, già iscritto anni fa insieme a Berlusconi in un analogo filone d'indagine poi archiviato, è ora di nuovo tra i politici sotto accusa nell'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E su quella compravendita torna adesso anche lo stesso Dell'Utri in aula a Palermo per la prima udienza del nuovo processo d'appello a suo carico per concorso esterno in associazione mafiosa disposto dalla Cassazione. Allora sentiamolo al microfono di Monica Ceravolo. Questi 21 milioni per la villa? Valeva 21 milioni. Vale 30. 30, capito? 30. Sono tutte minchiate dei signori qua pazzi, della signora procura di Palermo. Sentiamo le reazioni politiche all'inchiesta di Palermo. Torna la giustizia ad orologeria. Sono in molti nel centrodestra a commentare così gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulla presunta trattativa Stato-Mafia. Si avvicina il voto e torna il desiderio di aprire la campagna elettorale per via giudiziaria. Ora il tema è la solita paccottaglia contro le origini di Forza Italia, afferma il segretario del PDL Alfano. Ma a far discutere la politica in queste ore sono anche le intercettazioni telefoniche dell'inchiesta di Palermo che coinvolgono anche il presidente della Repubblica. Dopo la sua decisione di sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, contro Napolitano oggi arriva un duro attacco dal leader dell'IDV Di Pietro. Invece che mettere a disposizione tutte le proprie conoscenze della magistratura affinché finalmente dopo 20 anni, proprio il giorno che si ricorda dopo 20 anni la morte di Borsellino, si possa sapere qualcosa di più della verità, l'unica cosa che siamo venuti a sapere è che tutti, comprese le più alte cariche dello Stato, non vogliono far sapere ciò che è successo. Non la pensa così invece il leader dell'UDC Casini, secondo il quale il conflitto di attribuzioni sollevato da Napolitano è ineccepibile e serve a tutelare l'istituzione, non la persona. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Napolitano si incontra con Monti, si discute di decreti e caso Sicilia. In diretta Vincenzo Miglietta, buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, un faccia a faccia terminato da pochi minuti, chiesto urgentemente da Palazzo Chigi per avere un confronto sui principali temi di attualità, il possibile default della Sicilia e le prossime dimissioni del governatore Lombardo, ma anche le possibili correzioni ai diversi decreti all'esame del Parlamento, evidentemente temi che non possono aspettare nell'agenda del Presidente del Consiglio Monti. La riprova arriva anche dal Capo dello Stato Napolitano, impegnato inizialmente questa mattina in un convegno sul diritto pubblico. Ascoltiamo proprio Napolitano. Sento il bisogno di scusarmi per la brevità della mia presenza dovuta a un imprevisto incontro urgente con il Presidente del Consiglio, imprevisto come è in questa fase imprevedibile l'accavallarsi di scadenze politico-istituzionali interne e internazionali. E se secondo fonti del Quirinale, nel colloquio di questa mattina il Presidente del Consiglio Monti avrebbe illustrato anche al Capo dello Stato la situazione della finanza pubblica, l'andamento dei titoli di Stato, il braccio di ferro che quotidianamente coinvolge lo spread, insomma la situazione dell'Italia in vista di un mese di agosto che potrebbe essere di nuovo terreno di conquista da parte degli speculatori internazionali. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. A fronte di circostanze straordinarie sono necessarie risposte straordinarie. È quello che è accaduto nei mesi scorsi, lo afferma il ministro dell'economia Vittorio Grilli in un'audizione alla Camera sul Fiscal Compact. Allora sentiamo un passaggio. Il capitale potenzialmente conferito al meccanismo europeo di stabilità è di 700 miliardi di euro, di cui 80 di capitale versato e 620 di capitale, tra virgolette, a chiamata. L'Italia in questo meccanismo ha il 17,9% delle azioni ed è il terzo sottoscrittore dopo la Germania e la Francia. Lo sforzo finanziario che l'Italia dovrà fare è perciò pari, per gli 80 miliardi di paid-in, a 14,33 miliardi di euro da versare entro il 2014. Stop per lo stabilimento Fiat di Pomigliano dal 20 al 31 agosto a causa della crisi del mercato dell'auto, lo comunica la Fiat, dalla quale si apprende che saranno messi in cassa integrazione ordinaria 2.150 lavoratori dello stabilimento campano. E ora l'aggiornamento dai mercati finanziari con Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Giornata contrastata in Europa, Milano e la maglia nera del vecchio continente, le vendite su banche, big industriali e Snam, Rete Gas, di cui Eni ha collocato il 5%, zavorrano Piazza Affari a metà seduta. Infatti Milano fa segnare la peggior prestazione, perde lo 0,6%, mentre sono positive le altre piazze europee. Più 0,6% Francoforte, Parigi, più 0,15% Francoforte, più 0,12%. Londra. Giornata nervosa sempre per le solite questioni legate alla crisi del debito sovrano. Naturalmente abbiamo altri vertici nei prossimi giorni nei confronti dei quali il mercato è dunque interlocutorio ed attendista. Due aste di titoli di Stato questa mattina molto importanti. Ce n'è stata una in Portogallo, ma ce n'è stata anche un'altra piuttosto interessante in Germania, che ha collocato titoli di Stato appunto a 2 anni che hanno registrato rendimenti negativi per la prima volta per i titoli di Stato appunto tedeschi. Si tratta degli Schatz zero coupon, titoli che non riconoscono cedole. La Germania ne ha collocati oltre 4 miliardi ad un rendimento medio pari a meno 0,06%. È ancora una volta una tendenza che dimostra la fame di un porto sicuro da parte degli investitori internazionali. Lo spread fra BTP e Bund rimane sempre piuttosto alto, in questo momento è a 481 punti base, non si discosta da questo livello, non riesce a farlo e dunque questo ancora alimenta l'attenzione sul mercato obbligazionario italiano. Oggi abbiamo molti appuntamenti in calendario dagli Stati Uniti, molte trimestrali, una nuova audizione del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke che presenta il rapporto sulla politica monetaria alla Commissione Servizi Finanziari della Camera Americana. È tutto. Grazie Deborah Rosciani. Prima di passare alla Siria, un'agenzia appena abbattuta, il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo al processo sulla truffa sui derivati del comune di Milano ha chiesto di condannare Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e Deflora Bank a una sanzione di 1,5 milioni ciascuna e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. Chiesta inoltre la confisca di oltre 72 milioni di euro. E ora appunto la Siria, l'attacco kamikaze a Damasco, ucciso il ministro della difesa, l'attentato durante un incontro tra i ministri e alcuni responsabili dell'ordine pubblico. Da 2 giorni si combatte in alcuni quartieri della capitale tra ribelli e esercito. In diretta Alberto Negri, buongiorno. Buongiorno a voi. Si tratta sicuramente del maggiore attentato dall'inizio della rivolta del marzo 2011 contro il presidente Bashar Assad. Un colpo durissimo perché è avvenuto proprio nel quartier generale della sicurezza di Damasco, nell'area di Rawda, siamo in una zona centrale della capitale, quindi nel cuore più sensibile degli apparati di potere di Bashar Assad. È un attentato che non sappiamo quanto sia collegato all'offensiva che c'è stata in questi giorni della guerriglia, ma sicuramente da oltre 3 giorni nella capitale si combatte in diverse zone e gli insorti hanno dimostrato di poter arrivare anche vicino ai quartieri centrali e ai palazzi del potere. Tutta questa escalation della violenza avviene mentre il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e Kofi Annan cercano di convincere la Cina e la Russia a votare una risoluzione dell'ONU questa sera per il prolungamento della missione degli osservatori. In realtà è in atto uno scontro globale tra potenze, perché l'Occidente vorrebbe che venisse votata una risoluzione che prevede l'uso della forza contro il regime siriano. Mosca e Pechino si oppongono e nel frattempo il popolo siriano è sempre precipitato sempre di più in una guerra civile che sembra senza un finire mai. Grazie ad Alberto Negri per questo aggiornamento sulla Siria. Il Vaticano ottiene da Moneyval, la divisione del Consiglio d'Europa che valuta i sistemi antiriciclaggio, un voto positivo in 9 delle 16 raccomandazioni centrali del gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio. Lo si legge nel rapporto Moneyval, che invita la Santa Sede a rafforzare il proprio regime di vigilanza antiriciclaggio. Nel complesso del rapporto la conformità risulta al 49%. Il Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato oggi Green Hill, la nota azienda situata a Montichiari, in provincia di Brescia, che alleva cani per i laboratori di vivisezione. Questo mentre Lega Antivivisezione e Lega Ambiente chiedono che il Senato approvi la legge che vieta l'allevamento di animali per la sperimentazione. Allora sentiamo Sara D'Angelo, portavoce del movimento Fermate Green Hill. La campagna è partita 2 anni e mezzo fa, quasi 3 anni fa. Non è che è tanto il maltrattamento, è proprio tutta la vita e la normale brutalità dell'allevamento di animali che sono destinati alla vivisezione. Quindi al di là delle condizioni pessime di vita all'interno dell'allevamento, anche se fosse il posto più bello del mondo, sono animali che sono allevati per andare a morire sui tavoli della vivisezione. Senta, quanti sono gli animali secondo le vostre stime all'interno di Green Hill? Poco più di 2500. Stiamo cercando di capire anche durante il sequestro a chi verrà lasciata la custodia giudiziaria dei cani. Ovviamente i cani sotto sequestro rimarranno lì inizialmente, bisogna capire chi sarà il custode, perché non ha senso che il custode sia lo stesso Green Hill. Quindi stiamo cercando di capire un attimo il quadro completo di questo sequestro. In chiusura i nostri viaggi estivi in tempo di crisi. La buona notizia è che quest'estate ci sarà un solo giorno da bollino nero sulle autostrade, sabato 4 agosto. I blocchi, le lunghe code, i rallentamenti saranno da bollino rosso 15 giornate o da bollino giallo 17. Le italiche scene alla Verdone, dove si scende dall'auto, si apre il tavolino da campeggio e ci si mette a mangiare in strada, fanno parte dell'iconografia anni 80 e 90. Nel 2012 sembrano invece trionfare le partenze intelligenti. A furia di ripeterlo, gli italiani si saranno organizzati. Eppure, più di un sospetto, e qui sta la brutta notizia, si concentra sulla crisi. Meno traffico vuol dire meno vacanze o ferie spostate in periodi meno costosi, meno soldi, benzina più cara, dopo gli sconti del fine settimana, ora un litro di benzina costa in media 1,83 euro e il gasolio 1,73 euro. Del resto proprio ieri sono stati diffusi nuovi dati Istat sulla povertà. Peggiora in particolare la condizione delle famiglie operaie, mentre migliora quella di dipendenti o dirigenti. Ma che alcuni debbano rinunciare alle vacanze era chiaro già dai dati di Federalberghi diffusi qualche giorno fa. A giugno le presenze di italiani in hotel sono diminuite del 7% rispetto all'anno scorso. Segno dunque che non c'è stato un grande spostamento verso periodi più economici. Qualcuno rimpiangerà le code, che erano segno di scarsa organizzazione, ma almeno di benessere. Più delle partenze intelligenti, insomma, poté la crisi, reale o anche solo temuta. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere, un aggiornamento che arriva dalla Siria. Il ministro dell'interno e cognato di Assad, Assef Saukat, è morto in seguito alle ferite riportate nell'attentato di oggi a Damasco. Lo riferisce la televisione libanese Al-Manar del movimento sciita Hezbollah, alleato del regime di Damasco. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 17. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.